Radio 24 Reportage. Danimarca, flessibilità in sicurezza, di Sergio Nava. Flexicurity o flessisicurezza nella sua traduzione italiana. Il termine evoca un modello del mercato del lavoro considerato il migliore, almeno secondo gli standard europei. Ma cosa implica esattamente? E soprattutto, questo modello è trasportabile in mercati dell'impiego mediterranei altamente rigidi e regolati come quello italiano? Nel primo di una serie di tre reportage, Radio 24 indaga il modello della flexicurity nella sua patria naturale, la Danimarca. Buongiorno dall'aeroporto danese di Kastrup, ci troviamo a pochi chilometri dal centro di Copenaghen e oggi cominciamo il nostro viaggio all'interno del modello della flexicurity danese. Andremo a indagare come è nato, quando è nato, come funziona soprattutto e se può in qualche modo essere esportato anche verso il nostro paese, verso l'Italia e altri paesi europei. Cielo coperto, temperature ancora abbastanza rigide, da fine inverno, inizio primavera. Iniziamo oggi il nostro viaggio nella flexicurity danese. Vi anticipiamo subito la conclusione della nostra indagine. Qualsiasi paese intendesse adottare il modello di flexicurity danese non può fare un semplice copia e incolla, anche perché non è un caso se a Copenaghen hanno impiegato oltre 100 anni per arrivare a questo punto. Ora capirete il perché. I think that what makes the flexicurity model unique. Al Ministero del Lavoro incontriamo Bo Smith, sottosegretario del governo. Ci riceve in un'ampia sala, né giacca né cravatta, l'etichetta prevede solo la camicia. Ciò che rende il modello danese unico è la sua capacità di combinare la protezione dei lavoratori quando perdono l'impiego con una politica attiva nel mercato del lavoro, afferma. Questo viene reso possibile dalla grande flessibilità in ingresso e in uscita. È molto facile per le aziende ridurre la propria forza lavoro e il sistema è accettato da tutte le parti sociali. Smith però avverte: i costi sono alti, occorre pagare elevati sussidi ai disoccupati, occorre pagare anche le politiche attive per la ricerca del lavoro. Parliamo del 3% del PIL solo per le politiche attive, precisa. Of GDP, which is quite a lot. Fiducia è la parola d'ordine su cui si basa l'intero sistema della flexicurity. In un paese dove licenziamenti e assunzioni sono poco regolati, la fiducia tra le parti sociali è fondamentale e in Danimarca ci sono riusciti. I think that one very, very important aspect of the Danish flexicurity model is... Un aspetto molto importante del nostro modello è l'alto livello di fiducia tra governo e parti sociali. Esiste una forte cooperazione tra le parti sociali danesi al punto che l'esecutivo non prende parte a negoziati sul lavoro dal 1998, precisa Bo Smith, che aggiunge a mo' di consiglio per l'Italia: il bilanciamento dei tre pilastri è essenziale. Se non avete una buona protezione sociale o se vi mancano politiche attive di ricerca del lavoro, occorre costruirle. Occorre pure trasmettere la mentalità ai lavoratori che non bisogna essere attaccati al posto di lavoro, che se lo si perde la società vi aiuterà a trovarne un altro. Far percepire loro che esiste un sistema che evita la catastrofe se si resta disoccupati. I pilastri del modello di flexicurity danese sono dunque tre: estrema flessibilità nei licenziamenti e nelle assunzioni, alta protezione sociale, politiche attive per il reimpiego. I danesi amano definirlo il triangolo d'oro della flexicurity. Oggi ci concentreremo sui primi due pilastri. Anche a Copenaghen, va precisato, la crisi si è fatta sentire, ma gli effetti sono stati attutiti rispetto al resto d'Europa. Il modello ha aiutato. La disoccupazione generale è al 7,9%, quella giovanile al 14,6%, comunque sotto la media europea. I think we have... Erik Kiergaard è il direttore degli affari sociali alla DI, la Confindustria danese. Erik è un'istituzione nel mondo dei negoziati sociali, avendovi partecipato sin dagli anni 70. Mi accoglie nella sede temporanea della Confederazione nei pressi dell'aeroporto. Penso che abbiamo dimostrato come il nostro modello di flexicurity sia stato in grado di sopravvivere anche durante la crisi. Negli ultimi due round negoziali abbiamo concordato con i sindacati aumenti salariali molto bassi per recuperare competitività, afferma Kiergaard, la cui organizzazione rappresenta 10.000 aziende che danno lavoro a 1 milione di dipendenti, la metà dei quali, pensate, si trova all'estero. La visione della Confindustria danese è molto semplice: meglio creare nuovo impiego piuttosto che proteggere settori improduttivi. Anche per questo il sistema di licenziamento prevede un grado di protezione bassissimo, inferiore nell'area OCSE solo ad Australia, Stati Uniti e Canada. E non è un caso che sempre in area OCSE la Danimarca sia il paese con la maggiore mobilità lavorativa. In un anno quasi l'80% dei disoccupati ha trovato un nuovo lavoro. L'Italia invece è quintultima in classifica. classifica. Intanto a Copenaghen si guarda avanti per adattare la visione del sistema paese ai tempi che cambiano sull'onda delle sfide della globalizzazione. La maggior parte dei lavori che esportiamo fuori dal paese sono non qualificati. In Danimarca intendiamo concentrarci su lavori e prodotti ad alto valore aggiunto. Nell'ultimo round negoziale con i sindacati, in cambio di un aumento salariale pari a solo l'1%, abbiamo offerto un pacchetto di riqualificazione ai dipendenti pagato dalle imprese pari a 2 settimane l'anno, afferma soddisfatto Kiergaard. Insomma, la ricetta è semplice: guardare al futuro innovando e ridisegnando il tessuto industriale, dalla manifattura all'innovazione, spostando all'estero ciò che non è più competitivo in patria, per incentivare, in casa propria, settori ad alto contenuto tecnologico. Su un punto Kiergaard è certo: non può esistere un unico modello europeo di flexicurity. Insomma, impossibile fare copia e incolla. E ora ascoltate qualche altro segreto del modello danese, così capirete meglio perché applicarlo in Italia possa risultare molto difficile. La contrattazione avviene sì a livello nazionale tra le parti sociali, ma poi trova concreta applicazione a livello aziendale nel nome di una vera sussidiarietà. Gli stipendi, la forbice tra manager e dipendenti non è elevata come in Italia, così si evitano tensioni sociali, senza contare l'orizzontalità sul luogo di lavoro. Il capo è spesso giovane e soprattutto un primus inter pares, non ha necessariamente sempre ragione, è autorevole, non autoritario, così si lavora anche più rilassati. È proprio una questione di cultura. Dagli industriali ci muoviamo verso i sindacati. Anche la distanza fisica è relativa, pochi chilometri verso il centro di Copenaghen, dove si trova la sede della LO, la più grande confederazione sindacale di un paese dove 7 dipendenti su 10 sono iscritti a un movimento di difesa dei lavoratori. Dalla Annemansele, vicino all'aeroporto e vicino anche al Bella Center di Copenaghen, alla Islandsbrig, vicino ai canali, anzi proprio sui canali che costeggiano il centro della capitale. Siamo di fronte alla sede del principale sindacato danese, le immancabili biciclette parcheggiate di fronte all'edificio. Entriamo. The flexicurity is a thing that's balanced. You can't... La flexicurity è qualcosa di bilanciato, non puoi avere solo la flessibilità o solo la sicurezza, le due cose vanno assieme. Questo è il segreto del nostro modello, ci dice Marie-Louise Knuppert, a capo dei rapporti internazionali, accogliendoci. La Knuppert conferma subito l'alto grado di fiducia con il settore delle imprese, una vera prerogativa in un paese come la Danimarca a bassa tensione sociale. Qualcosa di inconcepibile invece sul mercato del lavoro mediterraneo, molto più conflittuale. Siamo sulla stessa barca, afferma lei con grande naturalezza. Ma cosa rende così tranquilli i sindacati danesi? La Knuppert prova a spiegarlo così. Se lei viene licenziato in Danimarca, viene alla sede del sindacato e ritira il suo assegno di disoccupazione, che può arrivare fino al 90% della retribuzione, fino a un massimo di 2.000 euro al mese. Ne ha diritto fino a 2 anni. Quando lei perde il lavoro, la società si occupa di lei, aiutandola a riqualificarsi. Ai suoi colleghi italiani e sudeuropei, che ancora non capiscono come in Danimarca questo sistema funzioni, lei dà un consiglio. Sedetevi al tavolo con gli imprenditori, con fiducia, trovate accordi e poi fate in modo di mantenere tutti gli impegni. Nella sua semplicità, un messaggio realmente rivoluzionario. Make agreements and stick to what you have agreed. In autobus arriviamo all'Università di Copenaghen in Oster Farimagsgade. Avremmo potuto anche usare una bicicletta. È impressionante quanto usino le due ruote i danesi. Ci sono intere zone della città dove i ciclisti superano ampiamente gli automobilisti. Ciascun abitante percorre in media quasi 3 km al giorno col velocipede. All'università l'atmosfera è allegra e il sole splende, preannuncia la primavera, e gli studenti si godono la bella giornata. We have to admit that the basic economic situation... Kai Andersen è il direttore del Centro Universitario per le Relazioni sul Mercato del Lavoro, detto anche FAUS. Un professore giovane sulla quarantina, molto diretto e anche un po' disincantato. Dobbiamo ammettere che l'attuale situazione economica sta influenzando il modello di flexicurity. La disoccupazione in crescita, per esempio tra i giovani, anche noi stiamo soffrendo. La flexicurity da sola non produce crescita e occupazione. Il professor Andersen condivide la svolta impressa dalle imprese sull'innovazione, ma è più irrealista. Anche alcuni dei buoni lavori sono scomparsi, mentre tra i nuovi lavori ce ne sono altri a bassa qualificazione. Andersen concorda con le parti sociali. La fiducia nella mobilità del sistema è alla base della flexicurity, ma precisa. Occorre un'economia in salute stabile. Penso esistano situazioni in cui non sono disponibili soluzioni immediate. Se l'economia soffre, se mancano investimenti, non esiste il modello perfetto. Serve dunque un'economia in salute, perché il modello funzioni. Prima di lasciarci, Andersen ci lancia una pista. Attenzione alla bolla immobiliare. Anni di credito facile hanno creato problemi anche in Danimarca. Ma questo è un segreto che i danesi preferiscono tenere per sé. You need to have a healthy economy beneath it all. Dall'Università di Copenaghen ci spostiamo a casa Europa, la sede delle rappresentanze di Commissione ed Europarlamento in Götaersgade. occorrono solo 5 minuti a piedi. È il momento di tirare le somme, comparando il modello danese al resto del continente. Per coincidenza, questo è anche il semestre di presidenza danese dell'Unione Europea. On the whole, I would say that the Commission certainly considers that Denmark has. La Commissione Europea ritiene che la Danimarca abbia saputo sviluppare un modello di mercato del lavoro evoluto che ha funzionato bene in questo paese, fornendo tassi di occupazione intorno all'80%. I danesi sono riusciti anche ad evitare il fenomeno dell'alta disoccupazione giovanile, afferma Michael Vezzo, portavoce della rappresentanza, che aggiunge: non stiamo lavorando come Commissione a un modello europeo di mercato del lavoro. Gli Stati membri sono molto diversi tra loro. Pensate solo alle differenze tra Danimarca e Italia. L'Italia crede maggiormente nel ruolo del governo nella regolamentazione dell'impiego, mentre in Danimarca funziona al contrario. Alta fiducia tra le parti sociali, bassa regolamentazione a livello governativo, basti pensare che non esiste un salario minimo per legge, sincronia quasi perfetta tra flessibilità e sicurezza, sono pochi e semplici gli ingredienti del modello danese di flexicurity, ma richiedono a chi voglia davvero applicarli un profondo cambio di mentalità, nonché culturale, altrimenti un simile modello, costosissimo per le casse statali, rischia di provocare più danni che benefici. La prossima settimana indagheremo sul terzo pilastro della flexicurity danese, le politiche attive per l'impiego, e vi spiegheremo perché qui, incredibilmente, funzionano bene.